Delle Amazzoni. Amazzoni? Credi che le incontreremo? Penso proprio di sì. Olimpia. Non avete visto il simbolo delle Amazzoni? Noi vorremmo poter attraversare i vostri territori. Io mi chiamo Temi. Vedo che conosci i costumi delle Amazzoni anche se non sei una di noi. E tu non lo sai sicuramente. Ehi, non fidarti mai delle apparenze. Hanno violato il nostro territorio. Dobbiamo portarle da Melanippe. Anfitea ha ragione. Deve decidere la regina Melanippe. Non temete, lei è giusta. Andiamo dalla regina delle Amazzoni? Oh, è fantastico! Sono così eccitata. Chissà come sarà. mai voluto studiare. Solo così si può fare strada nella vita. E per questo mi consideravano matta. Lo studio è uno dei doveri più seri ed importanti per le fanciulle amazzoni. Davvero? Oggi il potere degli uomini, Olimpia. Non perché così debba essere, ma perché noi glielo permettiamo. È basato sulla debolezza delle donne. Sì. Il potere delle amazzoni è basato sulla verità, sulla forza individuale delle donne. Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xina, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo. E quindi benvenute a C'è Trippa per gatte e più Xina per femministe lesbiche, amiche, compagne, amazzoni guerriere. Iniziamo la puntata di oggi riparlando di Paola Tabet, anzi facendo parlare Paola Tabet, filosofa materialista e antropologa. Nel suo ultimo libro, Le dita tagliate, analizza la storica esclusione delle donne dall'utilizzo delle armi e successivamente degli strumenti della tecnica e della tecnologia. Ascoltiamo la costruzione che fa Paola Tabet nell'audio di un documentario che si trova su internet, Une question d'ethnologie. All'inizio l'uomo era cacciatore e la donna raccoglitrice. L'uomo quindi per primo aveva accesso alla carne e questo gli ha portato molti vantaggi sulla donna. Le femmes ont généralement une défense absolue de toucher aux armes. Le donne in generale hanno un divieto assoluto di toccare le armi. Non c'è nessuna legittimazione, c'è una questione di dominazione e di potere. Le armi da sempre, anche al giorno d'oggi, danno il potere. Non è una cosa stupefacente quella che dico. E questo è continuato fino ad oggi. L'arma del cacciatore è stata poi rimpiazzata dagli strumenti, dagli utensili e delle tecnologie più complesse. Ma la separazione dei ruoli resta solida. In tutte le società, tutti gli utensili, tutti gli strumenti più complessi sono nelle mani degli uomini. Se non è la macchina, certamente è la tecnologia. Celle qui n'a pas accès au contrôle de ses outils reste cantonnée aux tâches dites subalternes. Chi non ha accesso al controllo di questi strumenti resta relegata al ruolo subalterno o alla doppia giornata senza nessun vero momento di riposo. C'est une séparation qui décide delle società più semplici può si vedere un po' come una separazione di classe. La separazione fra uomini e donne, la separazione nella società a livello più semplice si può vedere come una separazione di classe a livello di accesso ai beni, al riposo, al pensiero. Sono ben differenti. Tutto questo è estremamente legato all'organizzazione sociale della famiglia, della riproduzione anche, nel senso che le ragazze praticamente in tutte le società sono obbligate a sposarsi molto, molto giovani, molto spesso del tutto contro la loro volontà. Il sesso è loro imposto, chiaramente, spesso attraverso le botte, ma anche attraverso una forma di persuasione. Cioè, viene loro detto, se tu non accetti questo marito, chi ti darà da mangiare? È quello che io chiamo lo scambio economico-sessuale. Cioè, da parte dell'uomo, dare qualcosa come per esempio l'accesso al cibo, alla carne, e da parte della donna accettare bene o male il sesso. Accepter bien ou mal le sexe. Cette dépendance qui est une dépendance matérielle, qui est une dépendance due à une interdiction. Questa dipendenza, che è una dipendenza materiale, che è una dipendenza dovuta al divieto di utilizzare le armi, c'è una violenza estrema in questi rapporti. E nello stesso tempo è un insieme assai complesso di condizionamenti. Condizionamenti che vengono anche dall'affetto. È veramente un miscuglio che potremmo dire bizzarro se non lo conoscessimo da così presto. Au début, l'arme du chasseur, puis les outils de l'agriculteur, et maintenant la dernière version de l'ordinateur. All'inizio l'arma del cacciatore, più gli strumenti dell'agricoltore, e ora l'ultima versione del computer. Se nella società urbana le differenze si assottigliano, sono sempre state presenti. L'homme reste le pourvoyeur, celui qui passe en premier. L'uomo resta colui che detiene il potere, colui che passa per primo. Mais d'où cela peut-il bien tirer son origine? Ma da cosa ciò trae la propria origine? Du lion, la haine du tigre, la ruse du renard, la patience du chat, la persévérance du cheval et la ténacité du chacal. Elle disait. travail et la ténacité de chacun. Paola Tabbett analizza la storica interdizione delle donne imposta dagli uomini all'accesso e all'utilizzo delle armi. Questa interdizione, questo divieto, è una causa e non una conseguenza della, fra virgolette, inferiorità fisica delle donne, che invece non è altro che una costruzione sociale, culturale, storica ed economica. Questa storica interdizione delle donne all'utilizzo delle armi è una causa anche della povertà delle donne che, come sappiamo, possiedono solo l'1% della ricchezza mondiale. Torneremo a parlare di questi concetti e del libro di Paola Tabbett, Le dita tagliate, in un'altra trasmissione per approfondirne le implicazioni e per portare maggiori esempi anche tratti dalla storia e dalle culture dei differenti popoli. Ci interessa oggi anche dare voce alle tante donne, movimenti di donne che hanno invece violato questo divieto sociale e stanno portando avanti la rivoluzione del loro popolo come rivoluzione di donne. Mi riferisco alle donne curde, una fra tantissime che non abbiamo avuto la fortuna di conoscere e che ha dovuto sfidare il potere maschile, anche quello dei compagni rivoluzionari, per poter andare in montagna e apprendere le tecniche di autodifesa insieme ai compagni del PKK, è Sakine Chansis. L'abbiamo conosciuta solo dopo che è stata uccisa, trucidata insieme ad altre due compagne, Fidan e Laila, a Parigi nel 2013, il 9 gennaio, all'interno dell'ufficio di informazione del Kurdistan in Francia. E anche lo scorso 9 gennaio, sabato scorso, siamo scese in piazza per ricordare, chiedere giustizia e verità per questo massacro di tre compagne, ad opera probabilmente dei servizi segreti turchi. Siamo scese in piazza a Roma, un centinaio di persone davanti all'ambasciata francese, siamo scese in piazza a Bologna con un presidio di donne e volantinaggio nel centro della città, perché le compagne curde hanno fatto di questa data del 9 gennaio la data di lotta contro i femminicidi politici, ovvero contro le uccisioni delle donne in quanto donne, i femminicidi, ma anche in quanto donne portatrici di rivoluzione, appunto i femminicidi politici. E quindi andiamo avanti con la trasmissione e vi proponiamo un'intervista a Sakine Chansis realizzata appunto un paio di anni prima che venisse trucidata. Questa intervista a Sakine Chansis, Havela Sara, è stata realizzata nel 2011, la traduzione e il montaggio sono a cura di Alpi Libere, si trova su internet, si intitola Come un corpo solo e noi vi proponiamo l'audio. Potete andarvi poi a vedere l'intervista comunque, in cui ci sono molte foto, molte immagini. Sakine inizia raccontando la storia del PKK negli anni 70 come un punto di svolta per la questione curda e come momento di svolta per la lotta e il riconoscimento dell'identità curda e il suo rafforzamento. Una cosa molto bella che dice Sakine, che voglio ripetere, poi l'ascolteremo anche nell'intervista, è che la base ideologica e la struttura del movimento curdo si fondano sulla pratica. La teoria di conseguenza si rinnova costantemente seguendo i cambiamenti che sono in atto nella vita reale. Sakine passa poi a raccontare, a parlare della lotta delle donne all'interno del movimento curdo e definisce appunto la rivoluzione in atto come una rivoluzione fatta da donne, che sono organizzate in modo autonomo e che assicurano la propria organizzazione sulla base della loro propria ideologia, politica, leadership e autodeterminazione. Come un corpo solo, intervista a Sakine Chansis. sentirsi uniti decade dopo decade, generazione dopo generazione, come un corpo solo. Intervista a Sakine Chansis, militante curda fra le fondatrici del PKK nel 1978. PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, considerato un'organizzazione terroristica dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Sakine è stata assassinata a colpi di pistola insieme a Fidan Dogan e Leyla Soylemaz, sue compagne e militanti della causa curda, nella notte fra il 9 e il 10 gennaio 2013, all'interno dell'ufficio di informazione del Kurdistan a Parigi. Negli anni 70 il mondo intero e in particolare il Medio Oriente erano molto diversi da quelli di oggi. L'idea e la mappa del Kurdistan erano già state messe sotto il tappeto in quel periodo, non erano riconosciute. I curdi, che dovevano far fronte alla negazione della loro identità, vivevano questa negazione anche tra di loro, abbandonando o negando la propria identità. Le numerose ribellioni organizzate dai curdi si conclusero tutte con genocidi e massacri. I curdi non rappresentavano un problema all'ordine del giorno nel dibattito politico dell'area, tanto erano annichiliti dagli interessi dello Stato turco e dei poteri medio orientali e internazionali. La nascita del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, in tale periodo fu di enorme importanza per la riaffermazione del popolo curdo, della sua storia e della sua realtà storica contro il sistema dominante e le forze dello sfruttamento internazionale. La fondazione del PKK fu un punto di svolta, qualcosa che chiamò in causa tutti quanti. Nessuno poté più disconoscere l'esistenza dei curdi e di una questione curda. È interessante vedere come allora tutti avessero una diversa prospettiva e proposta di soluzione per la questione curda, un conflitto radicato in profondità e che da 30 anni coinvolge l'umanità intera, il Medio Oriente e le donne in particolare. L'identità curda tornò nuovamente alla ribalta, ma in una forma inedita, diversa dal solito. Essa poneva le sue radici nella propria ideologia, nella propria politica, organizzazione e forza. La lotta per il riconoscimento della realtà curda era guidata dal PKK, che come organizzazione deve essere analizzata tenendo in considerazione le ragioni stesse della sua nascita. La rivolta nel Kurdistan sotto la direzione di APO, Abdullah Öcalan, era diretta anche contro quei curdi che svendevano e rinnegavano la propria storia e la propria identità, proprio come lo facevano i loro sfruttatori. Sono diverse le leadership che hanno guidato le ribellioni curde del passato, ma è soltanto con l'emergere del movimento diretto da APO che il Kurdistan si è imposto nell'agenda politica internazionale. In più, la situazione creatasi in Kurdistan in tale periodo ha fatto emergere un nuovo legame tra le persone, ha risvegliato l'interesse del popolo, delle donne e di tante persone che da allora stanno facendo ricerche sull'identità curda, sulla cultura, sulle donne e su altri aspetti della lotta. Negli anni 70 il mondo era diviso principalmente in due blocchi. Uno di questi era quello del socialismo reale guidato dall'Unione Sovietica. Tale blocco stava attraversando un periodo di difficoltà interna, mentre le idee del socialismo e del marxismo venivano dibattute in tutto il mondo. Questo periodo fu anche teatro di una opposizione pubblica contro il sistema imperialista e di numerosi movimenti guidati dalla gioventù rivoluzionaria in tutto il pianeta. Anche in Turchia si visse la medesima situazione. I movimenti mondiali del periodo ebbero un'influenza anche sulla sollevazione curda, la quale acquisì importanza nel momento in cui unì la prospettiva del socialismo con le basi della struttura sociale e della storia del Kurdistan. Il movimento mise sul tavolo nuove questioni, a partire dai suoi punti di vista sul mondo, sullo Stato, sul federalismo e sulla sua realtà specifica. Il PKK mise in pratica il socialismo nella società. Fu una battaglia molto difficile che faceva i conti con la realtà di un Kurdistan in cui, in quel momento, anche molti curdi stavano ripudiando la propria identità. Il movimento, che emerse da un'organizzazione studentesca guidata da Apo e da un gruppo di altri compagni, si diffuse in breve tempo in altri ambiti della società. Esso fu portatore di una nuova pratica organizzativa, perché non c'erano precedenti né altre esperienze di lotta, a parte scoppi di ribellione occasionali. I movimenti che attraversavano il pianeta, senza dubbio, furono da stimolo per il movimento curdo, ma in una situazione in cui ogni punto di riferimento era stato stravolto, non fu semplice guidare un'organizzazione e una battaglia che coinvolsero tanta gente, fino a diventare un movimento appoggiato da milioni di persone come è diventato oggi. La base ideologica e la struttura del movimento si fondano sulla pratica, e la teoria si rinnova costantemente, seguendo i cambiamenti in atto nella vita reale. È questa, oggi, nel conflitto in corso, la principale caratteristica della leadership di Apo: rinnovarsi continuamente e dare battaglia contro ogni dogmatismo. Il movimento, che si è trasformato in una organizzazione che va oltre al partito, è cresciuto fino ad avere molte istituzioni affiliate, e ciò ha realizzato una forma organizzativa che oltrepassa le concezioni, che riteniamo miopi e inadeguate, di Stato, partito, nazione, gerarchia e genere. Noi definiamo questo sistema con il termine confederalismo democratico, una lotta fondata su organizzazioni ramificate e sull'autodeterminazione, sulla forza autonoma di ciascuno. Una delle caratteristiche più rilevanti di questa lotta è che si tratta di una lotta di donne, di una rivoluzione fatta dalle donne. Come è noto, in Europa ci sono stati diversi movimenti di donne, ma in qualche modo io credo che siano stati inadeguati nel modo di rapportarsi ai problemi delle donne. Tale insufficienza, io credo, è stata ben affrontata dalla posizione assunta dalle donne curde nella loro battaglia nelle fila del PKK. Il movimento delle donne curde ha avuto nomi diversi a seconda dei periodi, ma il punto è sempre stato quello di assicurare l'organizzazione delle donne sulla base della loro propria ideologia, della loro propria politica, della loro propria leadership e autodeterminazione. L'assunzione di tale coscienza, di tale qualità e di tale potere è, di per sé stessa, una rivoluzione. Questa battaglia ha innescato la formazione non soltanto dell'identità curda, ma anche dell'identità delle donne e della loro auto-organizzazione. A differenza di altri movimenti degli anni 70, il nostro movimento non ha affatto affrontato la questione di genere da un punto di vista teoretico, né ha trattato le donne come membri di un genere oppresso. Piuttosto ha creato nuove prospettive, fondandosi sul culto della Dea Madre, la Madre Terra, che dà priorità alla donna, sul rapporto tra la storia delle donne e la storia dell'umanità intera, così come sui valori e quelle qualità che hanno costituito per migliaia di anni le basi vitali delle società umane. Il comandante Apo ha avuto un indiscutibile ruolo in questo processo, in quanto è stato lui a introdurre la prospettiva socialista nella quale la vera libertà, la vera uguaglianza e la vera partecipazione sono gli elementi chiave, e le donne e le relazioni con loro sono il punto centrale. I concetti di libertà, uguaglianza, partecipazione vengono usati da chiunque in continuazione, ma alla prova dei fatti si rivela essere solo vuota retorica che non ha niente a che vedere con la vera essenza di tali concetti, anzi li svuota del loro significato, gli fa perdere la loro importanza. Lo sviluppo del movimento delle donne ha una storia lunga e interessante, anche in relazione ai momenti storici che ha attraversato, agli ostacoli contro cui si è scontrato e ai modi con cui li ha affrontati e combattuti. Un altro punto che meriterebbe di essere approfondito è come l'avanzamento e la liberazione delle donne si riflettano sulla società e come ciò cambia anche gli uomini. Continuiamo ad ascoltare l'intervista a Sakine Chansis realizzata nel 2011. L'intervista si trova, è un video, si trova su internet a cura di Alpi Libere. E nella seconda parte dell'intervista Sakine parla dell'importanza dell'espressione artistica e culturale che sono forme di emancipazione del popolo curdo e che hanno contribuito e che contribuiscono alla crescita della lotta contro la violenza e l'annientamento. L'arte rivoluzionaria, così come la musica, le canzoni in lingua curda, sono uno stile di vita, dice Sakine, significano unire il cuore, la mente, la lingua e tutti i sentimenti e i pensieri e rendere la vita più bella e vivibile. Contro i divieti, le proibizioni ovunque, la repressione dello Stato turco. Il nostro movimento ha anche posto una speciale attenzione all'ambito artistico e culturale. Tutte le ricchezze e i valori dei curdi sono stati distrutti in conseguenza della predominante mentalità di coercizione e di violenza. Nella storia del Kurdistan la politica dominante è da sempre basata sulla violenza e all'origine di brutalità e genocidi. In un simile contesto, dove violenza e annientamento sono stati imposti all'intera popolazione curda, le persone hanno dovuto esprimere se stesse in ambito artistico e culturale per emanciparsi, così come ha fatto il movimento di liberazione delle donne attraverso la propria lotta specifica. La crescita della lotta ha a sua volta stimolato il libero progresso dell'arte e della cultura curde, che erano sempre state tralasciate, negate o distorte. Questa crescita artistica e culturale ha comportato un impegno durissimo, perché in quel periodo non solo era proibito cantare nella propria lingua pubblicamente, ma era vietato farlo anche in privato. Potevamo cantare nella nostra lingua soltanto sulle montagne, nel nostro territorio, ma non era lo stesso per le altre persone nel resto del Kurdistan, dove le autorità oppressive e sfruttatrici dello Stato riuscivano a dominare la gente, a proibire ogni cosa e a militarizzare persino le menti. Nessuno poteva esprimersi liberamente, cantare una canzone, piangere o ridere. I sentimenti delle persone dovevano rimanere chiusi in loro stessi. Si viveva nel dolore e molte emozioni emergevano soltanto attraverso i lamenti delle nostre madri. È in questo senso che il movimento curdo ha rappresentato anche un'esplosione in campo artistico e culturale. Questa evoluzione è stata una vera e propria sfida in molte aree del Kurdistan, in cui ogni progresso era soffocato dalle condizioni imposte dalla Turchia. È stato solo dopo gli anni 90 che i curdi hanno creato istituzioni in Kurdistan per occuparsi degli aspetti artistici e culturali che al tempo venivano coltivati tra i ranghi della guerriglia nelle zone liberate dalla lotta. Il movimento guerrigliero non consisteva solamente in armi o combattimenti difensivi, includeva anche lo sviluppo di un vero senso della politica, dell'arte, dell'etica e dell'estetica. L'impegno culturale e artistico ha avuto impulso all'interno di ogni contesto possibile, non solo nelle aree della guerriglia, ma anche in Europa e in tutti gli altri luoghi dove i curdi vivono e si organizzano. Il nostro movimento, i leaders nelle battaglie ideologiche, tutte le istituzioni, il fronte della guerriglia, il fronte delle donne, il fronte culturale e artistico, tutto è stato portato avanti principalmente da gente giovane, fin dall'inizio. È una tradizione che ancora perdura nel movimento e che unisce tra di loro molte generazioni, da quelle degli anni 70 fino a quelle degli anni 2000. Tutto questo determina, di fatto, un sentirsi uniti, decade dopo decade, generazione dopo generazione, come un corpo solo. Il movimento è nato da persone giovani, inesperte e con limitate opportunità, ma col passare del tempo è cresciuto, diventando sempre più organizzato. Le canzoni di lotta, martirio, vita, tortura nelle prigioni, resistenza, dei dolori che il nostro popolo ha sofferto, ogni ballata, ogni melodia, hanno per noi curdi un significato particolare, perché ritroviamo noi stessi ascoltando le canzoni nella nostra lingua madre. Questo era un tipo di arte che rifletteva la lotta e si estendeva anche in ambito teatrale, cinematografico, musicale. I valori del popolo devono sempre essere mantenuti vivi. La lotta nei territori liberati e i suoi successi hanno sempre attirato gente. I nostri compagni e la gente che sta in montagna non sono solamente curdi, abbiamo compagni di quasi tutte le nazioni, tutti provenienti da paesi diversi e con differenti attitudini. Comunque sia, ovviamente, il fardello della lotta è sostenuto dai curdi. Lo sviluppo dell'arte rivoluzionaria è strettamente connesso al senso di comunità. L'arte è nata e cresciuta grazie a persone con grandi orizzonti e ampie prospettive, come pure con profondi e sinceri sentimenti e pensieri. Non significa solo cantare canzoni nella propria lingua, ma è uno stile di vita. Significa unire la mente, il cuore, la lingua a tutti i sentimenti e i pensieri. Significa rendere la vita più bella e vivibile. Certo, non mancano difficoltà e limiti nel progresso della cultura e dell'arte curda, perché dobbiamo scontrarci con divieti e proibizioni ovunque. Le nostre istituzioni sono sempre state criminalizzate e messe al bando, viste come pericolose, anche nei paesi che si dichiarano democratici, senza riguardo al fatto che la cultura e arte sono elementi vitali di ogni popolo e in ogni luogo hanno radici profonde. Arte e cultura hanno un'influenza che la politica stenta ad avere, rivelano le motivazioni politiche dei popoli e la giustezza delle loro aspirazioni, come nessun altro strumento riesce a fare. Credo che la cultura e l'arte dei curdi si incontreranno con quelle degli altri popoli, condividendo le tendenze globali all'innovazione e al perfezionamento, ma contemporaneamente salvaguardando la propria cultura originaria, il proprio patrimonio e le proprie radici. fantasmi che Gingiana Zadie, Gingiana Zadie, Gingiana Zadie, Gingiana Zadie, Emmerinin Gianin, la Siman Pirozin, Emmerinin Gianin. Mantirose Çabintirin, can hezbikin Minaster ki geçin Cava zemzemi pak Bula bak çabintirin Can hezbikin Cinciyan azadiye He he Cinciyan azadiye Cinciyan azadiye He he Cinciyan azadiye Cinciyanın la siman pirozen Hem evinin cihanın la siman pirozen Cinciyan azadiye Cinciyan azadiye We'll be right back. is waiting on you.